Ascoltami amore, vieni, stanno arrivando. Sono a due passi qui sotto, i figli del mondo. Se tieni alla nostra quiete, è meglio tagliare la corda. Sfiliamo dietro le quinte, prendiamo adesso la strada che conta. A noi serve un'altra atmosfera, non abbiamo bisogno di pupazzi di cera, né tantomeno della loro presenza, delle loro armi, della loro violenza. Non aspiriamo alla loro ignoranza, né tantomeno abbiamo pazienza, non seguiremo la loro indulgenza e nemmeno la loro arroganza, perché come cavalli noi siamo figli delle praterie del mondo. Dammi la mano che noi siamo i figli del vento, appesi alla luce del sole, come due aquile sfrecciamo. Seguimi amore, ti prego, Dio mio, quanto ti amo, perché come cavalli noi siamo figli delle praterie del mondo. Dammi la mano che noi siamo i figli del vento, appesi alla luce del sole, come due aquile sfrecciamo. Seguimi amore, ti prego, Dio mio, quanto ti amo. Perché cercare ciò che già abbiamo? Perché dover dimostrare quello che non siamo? Non saremo mai le vostre canne da zucchero, né i vostri alibi, né il vostro pulpito, le vostre pareti su cui appendere cadaveri. Non abbiamo più tempo per i vostri politici. Noi siamo stufi delle vostre promesse, delle vostre facce, delle vostre magagne. A noi serve un'altra atmosfera, non abbiamo bisogno di pupazzi di cera, né tantomeno della loro presenza, delle loro armi, della loro violenza. Non aspiriamo alla loro ignoranza, né tantomeno abbiamo pazienza, non seguiremo la loro indulgenza e nemmeno la loro arroganza, perché come cavalli noi siamo figli delle praterie del mondo. Dammi la mano che noi siamo i figli del vento, appesi alla luce del sole, come due aquile sfrecciamo. Seguimi amore, ti prego, Dio mio, quanto ti amo, perché come cavalli noi siamo figli delle praterie del mondo. Dammi la mano che noi siamo i figli del vento, appesi alla luce del sole, come due aquile sfrecciamo. Seguimi amore, ti prego, Dio mio, quanto ti amo.